Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. A volte è difficile pensare che persone che nascono e crescono in due città diverse, come Roma e Torino, possano invece incontrarsi ed entrare in sintonia con un semplice sguardo. No, oggi non si parla di una grande storia d'amore. Oggi parliamo di una collaborazione professionale, nata per caso tra due giovani intellettuali, amanti della letteratura e delle sigarette, il cui incontro ha dato vita a una delle coppie più fervide del panorama letterario del dopoguerra. Roma, Roma, Torino, Torino. Marcello Sorgi, già direttore del TG1 e giornalista prima del Messaggero e poi della Stampa, descrive in un suo articolo il difficile rapporto che lega queste due città, distaccato, in alcuni casi polemico, comunque di grandissima lontananza. Torino l'aristocratica, tagliata in due dalle calme acque del Po, all'apparenza fredda e diffidente come i suoi abitanti, con i suoi corsi, i suoi palazzi antichi e le sue fabbriche, capitale dell'industria automobilistica italiana. Roma, la città delle mille chiese, delle antiche vestigia romane, culla della civiltà, ma anche dell'allegria e dell'invadenza a volte insopportabile dei suoi abitanti, capitale della politica italiana. Sembra impossibile che due persone nate e cresciute in così diversi ambienti possano incontrarsi e intrecciare un rapporto professionale e di grande amicizia che li accompagnerà per sempre, anche oltre la vita. Ma andiamo con ordine. A Destini Incrociati, il nostro viaggio di oggi inizia a Torino. È il 1926, è qui che nasce il primo dei due protagonisti di oggi. È un bambino come tanti altri, figlio della media borghesia torinese. Suo padre è un uomo alto e biondo, con due profondi e gelidi occhi grigi. Il piccolo subisce il timore di quest'uomo così imponente, ma che in realtà è mite, ingenuo, di poche parole. I ricordi delle lunghe passeggiate domenicali sulle colline torinesi riemergono in una recente intervista. Il suo nome è Carlo Fruttero. Carlo Fruttero. Mio padre parlava pochissimo e camminava molto. Pensava che bisognasse la domenica fare la passeggiata in collina. Io mi ricordo, gli davo la mano e lui, in silenzio assoluto, camminavamo per 3 ore, per esempio. Poveretto, era mite, era debole, ingenuo, insomma, fuori dal mondo. Era un omone bellissimo, biondo, molto alto e con quei occhi grigi di gelo e così camminavamo. Carlo Fruttero ha una voce dal tono alto, il tipico falsetto piemontese, lievemente snobistico. Del resto cresce in una città che è pervasa dall'aura aristocratica della reale famiglia Savoia. Ma è anche la città della famiglia Agnelli, che nel 1939 completa il nuovo stabilimento di Mirafiori, orgoglio fascista della produttività italiana, capace di dare lavoro a 50.000 persone. Come Carlo ama raccontare, deve la sua carriera e il suo amore per i libri all'avvento della Seconda Guerra Mondiale. Ci giunge notizia che questa notte, approfittando del buio, aerei britannici hanno riversato sulla città di Torino tonnellate di bombe nemiche. I bersagli sono stati gli stabilimenti Fiat della zona Lingotto. Il più tremendo bombardamento che la città ricordi ha provocato la morte di 792 persone e il ferimento di altre 914. 1500 abitazioni sono danneggiate e 431 sono rase al suolo. Così, dopo aver martoriato Milano e Genova, i bombardieri rivolgono la loro forza distruttiva anche sulle industrie torinesi e il giovane Carlo lascia la città per sfollare in un casale di famiglia nel Monferrato. Nelle vicinanze di questo casale si trova un castello dove è presente una ricchissima biblioteca. Carlo si avvicina così alla lettura e in poco tempo viene pervaso da una passione per i libri che lo porta a leggere di tutto, a imparare l'inglese, il francese, a vivere il piacere della lettura come una droga. Fruttero è un autodidatta, non fa neppure un esame universitario. Eppure questa sua passione per i libri lo trasforma, comincia a far crescere nell'animo di questo giovane torinese una passione ancor più forte, quella di scrivere. Per correr miglior acque, alza le vele ormai la navicella del mio ingegno. Così recita Dante e così pensa il giovane Carlo in una città che ama ma che comincia a stargli stretta, impregnata com'è dall'odore della Fiat. La decisione è presa. Deve allontanarsi, alzare le vele verso nuovi lidi. E così lascia la sua Torino, spinto da una crescente voglia di conoscere l'Italia e l'Europa. Il viaggio più bello risale al 1950, l'anno del giubileo presieduto da Papa Pio XII. La meta è Roma. Fruttero non crede in Dio né nella Chiesa né nel Papa né tantomeno nelle indulgenze. Malgrado ciò, decide di recarsi a Roma a piedi, con una bisaccia in spalla, come un pellegrino del Medioevo, facendo 40 km al giorno e mettendoci 26 giorni. Il viaggio è pesante e i piedi si riempiono di piaghe che cura con i consigli delle suore nelle parrocchie dove trova ospitalità per riposare. Ma Fruttero non è stanco. Anzi, la sua è una ricerca continua del significato dell'incomprensibile, nel tentativo di trovare una corrispondenza alle decine, centinaia di libri letti su argomenti trascendenti e dal punto di vista di un ateo privi di spiegazioni razionali. Vola mia stella, quanta strada ha dato di, ancora quanta strada. Tra le mete dei suoi viaggi, Parigi conquista una posizione privilegiata. L'aria che si respira in quegli anni è magica. Parigi è il luogo dove i grandi personaggi della letteratura hanno trovato ispirazione per le loro opere. Un giovane appassionato come lui non può non amare una città del genere e viverla alla maniera dei suoi miti, da Baudelaire a Balzac, da Dumas a Proust. I ricordi di quegli anni sono indimenticabili. Tant'è che Fruttero li fissa anche in uno dei suoi libri, Mutandine di Chiffon. Occhiuti. Voraci, intensissimi, controllavamo di persona dei luoghi comuni, verificavamo dei cliché, percorrevamo euforicamente i sentieri di una Disneyland letteraria, dove, invece di Topolino e di Bambi, si offrivano al nostro sguardo rapito gli asfalti e i caffè tabac di Simenon, i passage di Céline, i tramonti di Baudelaire, i palazzetti di Stendhal. Sono gli anni in cui, abitando in miserabili alberghi a Montparnasse, il 22enne Fruttero si barcamena tra mille lavoretti, dall'imbianchino al giostraio, facendo il pane o consegnando il sidro nei bar della Rive Gauche. Cercai di vivere romanticamente, insomma, avevo l'ideale romantico di vivere la giornata. Ho fatto lavori, come si dicono adesso, usuranti, insomma, il manovale, il giostraio pure. Naturalmente sfruttato come adesso gli immigrati, dormivo in dormitori terrificanti, insomma, e andai avanti così per un po', tre o quattro anni, poi andai a Londra, insomma, e pian piano mi resi conto che era una vita molto dura che non portava da nessuna parte. E allora, quando vidi che le domeniche sono ugualmente lugubri dovunque tu sia, a Torino come a Londra, e me ne tornai a Torino. Sono passati solo 26 anni da quando in un tranquillo quartiere torinese nasce Carlo Fruttero. Intanto a Roma, negli stessi anni, muove i primi passi l'altro protagonista della nostra storia, Franco Lucentini. Franco Lucentini. Nato nel 1920 da una famiglia di origini marchigiane, Franco Lucentini fin da giovane ha una voce da basso. E come racconta Pietro Citati, scrittore critico letterario, in un recente articolo, quando giungono in bocca le voci si incrociano, si aggrovigliano, si impastano, litigano, producendo un incomprensibile farfuglio di parole ferite, mangiate e smozzicate. A differenza di Fruttero, che non ha mai dato neanche un esame universitario, Franco Lucentini si laurea in filosofia all'Università di Roma, discutendo una tesi sul concetto filosofico del tempo. Allora, oggi, come ripetutamente promesso, risponderemo alle lettere sulla questione Proust, cioè si devono o non si devono leggere tutte le 4.000 e passa pagine alla ricerca del tempo perduto? Senti, rispondiamo subito? No. Come no? Io rimanderei a dopo, perché... Vabbè. Lucentini è un personaggio schivo, non ama mettersi in mostra e difficilmente concede interviste. Le testimonianze che raccontano qual è la sua visione del mondo ci arrivano da Carlo Fruttero o dalla moglie Simone, una donna parigina dal carattere forte che lascia la Ville Lumière e segue il suo innamorato in esilio a Torino come Anita avrebbe seguito Garibaldi. Franco era un uomo intelligentissimo. La sua razionalità nell'affrontare la vita gli ha permesso di ottenere risultati impossibili per altre persone. Amava analizzare le cose, smontarle, rimontarle, scoprirne i meccanismi. In pochi anni aveva imparato quasi tutte le lingue: ebraico, greco, latino, russo, tedesco, spagnolo, francese e inglese, naturalmente, ma anche danese, norvegese, islandese. Quando Pietro Citati, scrittore e critico letterario, gli chiede come ci riesce, Lucentini risponde che basta scoprire la struttura di ogni lingua, smontarla e rimontarla come un meccanico smonta e rimonta una bicicletta. L'approccio razionale di Lucentini riguarda non solo le lingue straniere, ma il mondo intero. Sulla sua scrivania tiene sempre due oggetti, un cannocchiale della Marina con cui contemplare le stelle e un microscopio dell'Ottocento con cui osservare lombrichi, vermi, formiche. È un artigiano, un bricoleur, come ama definirlo Carlo Fruttero. Durante il periodo universitario, in Lucentini cresce l'odio nei riguardi del fascismo, che egli stesso definisce un insieme di mascelle protese, mani sui fianchi, petti indomiti, folle idiote che applaudono idiozie. Lucentini è genuino, genio e sregolatezza, e spesso reagisce d'impulso, senza realmente valutare le conseguenze delle sue azioni. Di sentire i discorsi di Mussolini non ne può proprio più. Per questo motivo un giorno acquista alcuni pacchi di stelle filanti e con alcuni suoi compagni di università stampa sulla parte interna dei rotoli una serie interminabile di frasi antifasciste contro il Duce, contro l'Impero, Ciano e Starace. Qualche giorno dopo, durante una manifestazione politica, le stelle filanti cominciano ad attraversare la piazza lanciate dagli stessi sostenitori del fascismo, che incautamente hanno raccolto da terra quei piccoli rotoli abbandonati abilmente da Lucentini e dai suoi amici congiurati. Peccato che una volta srotolate le strisce di carta mostrino quelle frasi. Per questa azione sovversiva, Lucentini viene arrestato e detenuto per 6 mesi a Regina Coeli. La fase successiva è l'arruolamento nell'esercito. E quelle ragazze, le sole che poi non ti chiedono un matrimonio. Quando ero soldato, che bell'età, scoppiavo di vita e di allegria. Poi è finita, sono tornato a casa mia. Lucentini non è un buon soldato, anzi è esattamente l'opposto di ciò che ci si può aspettare da un militare. Marcia fuori tempo, non capisce i comandi, dimentica lo zaino, non colpisce mai il bersaglio durante le esercitazioni. Eppure il suo talento di artigiano lo salva dall'infamia e dal disonore della divisa, come ricorda un suo vecchio commilitone. A quei tempi ricordo che c'era una sorta di gara interna tra coloro che erano in grado di abbassare anche solo di un secondo i tempi di smontaggio e rimontaggio del modello 91, il fucile in dotazione all'esercito italiano. Lucentini cominciò ad esaminare il fucile, ne studiò i meccanismi, osservò i movimenti dei soldati e ingaggiò ancora una volta la sua guerra personale con il tempo. E la vinse. Dopo circa un mese, Lucentini inventò un nuovo metodo di caricamento del fucile e la notizia che un soldato era riuscito a dimezzare il record nazionale di smontaggio e rimontaggio di un modello 91 arrivò fino agli alti comandi dell'esercito. Lucentini diventa così, da un giorno all'altro, un eroe. Viene promosso al grado di sergente e presentato in ogni caserma come esempio da seguire. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. Ma il 3 settembre del 43, 5 giorni dopo, viene firmato l'armistizio e la guerra finisce. Il sergente Lucentini torna così a essere un semplice povero letterato. Tornato a casa, Lucentini comincia a lavorare per alcune case editrici, tra cui quella torinese di Giulio Einaudi, che gli chiede di trasferirsi a Parigi per fare lo scout in cerca di nuovi talenti letterari. Vola, È il 1952. La ricostruzione post-bellica è quasi terminata. Sono gli anni della ripresa economica e l'Italia è come la timida colomba con cui Nilla Pizzi trionfa a Sanremo. Ma quella stessa Italia è lontana per Fruttero e Lucentini, che proprio in quell'anno sono entrambi a Parigi, in un alberghetto di Montmartre, dove si incontrano per la prima volta, senza sapere che quello è solo l'inizio di un rapporto che durerà per anni. Così ricorda quel momento Carlo Fruttero nelle pagine del suo libro Mutandine di Chiffon. Lo portò da me un pomeriggio il nostro comune amico Sandro, che veniva dall'Italia e mi aveva lasciato pochi giorni prima un numero della rivista Nuovi Argomenti perché leggessi il racconto di Lucentini, La Porta. L'avevo letto e quando Lucentini arrivò gli dissi: «Ma quanto è bello, quanto m'è piaciuto!» Sebbene avessi delle segrete riserve su certi punti, Lucentini ringraziò, farfugliando qualcosa, e poi sorrise. Il sorriso di Lucentini contiene in superficie impaccio, confusione. È un sorriso mite, soave, sincero, disarmante, che fa subito pensare a un uomo buono e che sconvolge Fruttero per sempre. Eppure, neanche Lucentini si rende conto di questo suo potere da pifferaio magico. Anzi, racconta Fruttero al contrario. Ogni volta che cerca di essere simpatico a qualcuno per calcolo, cercando di utilizzare qualche calibrato numero di charme, il risultato è sempre catastrofico. Il suo potere, Lucentini, non è in grado di controllarlo, di volgerlo al suo profitto. È un candido autentico e proprio per questo irresistibile. Tanto irresistibile che da quel primo incontro qualcosa sembra essere già chiaro al destino. Ma devono passare ancora 5 anni prima che le vite di Fruttero e Lucentini si uniscano per sempre. Destini incrociati. Destini incrociati sta seguendo i primi passi di 2 ragazzi provenienti da 2 città tanto diverse, Roma e Torino, che però nei loro caratteri hanno già instillate delle similitudini. Sono Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Siamo alla fine degli anni 50 e più precisamente nel 1958, quando Domenico Modugno vince il Festival di Sanremo celebrando il miracolo italiano. L'Italia vola senza freni attraverso gli anni del boom economico. Fino a questo momento Fruttero e Lucentini si sono avvicinati, si sono sfiorati per pochi istanti per poi separarsi di nuovo come 2 asteroidi che solo casualmente incrociano le loro traiettorie nello spazio. A 5 anni dal loro primo incontro in un piccolo albergo di Montmartre si ritrovano ancora una volta, ma la città del loro incontro stavolta è Torino. Lui faceva il lettore, lo scout, pagato 3 lire per Einaudi. A Parigi, dove abitava a Montmartre. E poi aveva una moto e si copriva tutto con un affare di gomma e poi veniva fino a Torino in moto. Ci metteva un sacco di tempo, però gli piaceva. Era uno che amava guidare Lucentini. Lui aveva, insomma, questa sfida. Veniva giù e poi a un certo punto il viaggio era spaventoso, i soldi zero. E alla fine si stabilì a Torino anche lui, per essere vicino alla casa e alla cassa, perché se non stavi lì a chiedere non ti pagavano, insomma era una casa editrice estremamente illustre, ma con pochi soldi, come è ovvio sempre in questi casi. È così dunque che Carlo Fruttero e Franco Lucentini iniziano a lavorare per la Giulio Einaudi Editore, nella sede di via Umberto Biancamano 1 bis. E questo è l'inizio di quella collaborazione professionale che li manterrà legati per oltre 50 anni. Ma cominciamo a ridere a queste riunioni della casa editrice. Ridevamo delle stesse cose, gli altri non ridevano e invece io vedevo che Lucentini rideva, non so, parlavano di qualche grande luminare con la enorme serietà, rispetto, e noi anche. Però dopo un po' faceva ridere, insomma, ce l'avevano parecchio la cosa del luminare. In queste case editrici di cultura il luminare vive, esiste, è. E noi Siamo un po' come i compagni di scuola. A darsi di gomito. Cominciamo a ridere. Sono giovani e spregiudicati, Fruttero e Lucentini. I redattori della più seria e prestigiosa casa editrice italiana li guardano come Pinocchio e Lucignolo nel loro personale paese dei Balocchi. Su tutti regna incontrastato Giulio Einaudi. Einaudi è tutt'altro. Giulio Einaudi è un vampiro. Giulio Einaudi è una strega. Giulio Einaudi è un uomo che... Garzanti è scostante e Giulio Einaudi invece tenta di risucchiare tutti, perché tutti vengono sul suo vasto petto e lo amino, vuole essere amato. Così lo descrive lo scrittore Pietro Citati. Carlo Fruttero lo definisce un eccellente editore, ma anche un divoratore di persone, poiché con il comportamento tipico dei sovrani, Einaudi conosce l'arte, chiamiamola così, di mettere l'uno contro l'altro. Ma un altro editore sta per cambiare la vita di Fruttero e Lucentini. Abbiamo fatto da Einaudi questa antologia di fantascienza con Sergio Solmi, che ebbe l'idea, e raccogliemo due volumi di racconti fantascienza, che noi stessi non sapevamo che fosse tanto divertente. E invece ci mettemmo le mani e trovammo, non so, 50-60 volumetti, e c'erano dei racconti meravigliosi. Insomma, fu una generazione, quella lì, degli anni 50, strepitosa, di scrittori spiritosissimi, geniali, pieni di paradossi, pieni di capovolgimenti, cose anche molto audaci, insomma, molto belli. Einaudi, che era certo l'editore più snob d'Italia, lanciò questo genere che era considerato inferiore, misero, meschinello, insomma, popolare, troppo popolare anche, con i mostri, i tentacoli. Ed ebbe un grandissimo successo questa iniziativa. Questi due volumi diventarono dei classici in un momento, e a quel punto, dopo un po', la Mondadori ci chiese di leggere per Urani. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tutto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva: extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Fruttero e Lucentini lasciano Einaudi per passare a Mondadori, a Milano, dove riprendono a occuparsi di fantascienza. Per oltre 15 anni dirigono la collana Urania, la prima collana editoriale italiana di fantascienza, i cui successi e contenuti hanno contribuito in modo decisivo alla conoscenza della fantascienza internazionale nel nostro paese. Molti autori come Isaac Asimov, Ballard, Dick e tanti altri vengono pubblicati per la prima volta in questi libri riconoscibili dal cerchio rosso in copertina. Per un po' Einaudi disse: ma sì, leggete anche per Mondadori, tanto non c'è concorrenza, insomma, per una rivista come Urania non, per noi non esiste nemmeno. Poi invece ci ripensò e allora dovemmo scegliere, e scegliemmo di andare a fare Urania, cosa ben più difficile che fare delle antologie di racconti, perché lì ogni 15 giorni devi trovare un romanzo che stia in piedi, quindi la scelta era difficilissima, insomma, leggevamo molto e scartavamo anche moltissimo. Fruttero e Lucentini hanno molto tempo libero, ma questo tempo lo trascorrono a conoscersi e a confrontarsi su tutti gli argomenti. I libri, le donne, la politica, persino le sigarette, compagne di viaggio nei loro frequenti spostamenti a Milano, sede della Mondadori. queste ma che bello, queste le piacciono, ma ci sono ancora, no, è una scatola vuota, una scatola. Le sigarette non hanno resistito, non c'è niente, però è la scatola originale, sì. È l'unica che c'è in Italia, che bellissima. Quindi, ecco, questo, che buona idea. Fruttero predilige le Turmac, le sigarette olandesi, il cui nome deriva dall'unione di Tur e Mac, che indicava la miscela di tabacco turco e macedone. Sono le sigarette preferite da Berlinguer, le sigarette sul cui pacchetto si dice che Totò abbia scritto le parole di Malafemmine. Tu cusina ma la femmina. Lucentini invece fuma le Macedonia, le sigarette che la propaganda fascista mise in bocca al giovane Balilla in una celebre immagine pubblicitaria, le sigarette preferite da Pirandello. Senza rendersene conto, nelle carrozze del treno Torino-Milano, Fruttero e Lucentini si accorgono di lavorare bene insieme, di riuscire a costruire ragionamenti e partorire idee come se fossero figlie di un'unica mente. Si accorgono di essere l'uno il completamento intellettuale dell'altro. Questa sinergia intellettuale dà i suoi frutti nel 1965, quando sono a Forte dei Marmi, dove trascorrono tranquille serate lontano dalla mondanità. E un giorno Lucentini cominciò a dirmi: ma certo che Torino è strana, è una città molto strana, le donne di Torino sono strane, queste signore. Io, a dire la verità, non è che me ne fossi accorto, ma lui insisteva, diceva: ma guarda che è una città nordica, tutta diversa dalle altre città italiane, è molto, molto bizzarra, molto, c'ha questo suo, anche un certo tipo di humor che non c'è negli altri posti. Insomma, dai, alla fine cominciamo a pensare di fare una serie di raccontini torinesi con questa signora protagonista. Parla, alla fine ci dicemmo: ma perché non scrivere un romanzo a quel punto lì? Che stiamo a fare? I bozzettini? Facciamo un romanzo ormai, con tutto quello che abbiamo letto. Vuoi dire che non sei capace di fare un romanzo? E così cominciamo a lavorare mentalmente sul romanzo. È in questo modo che inizia la stesura de La donna della domenica, un libro che ha un incredibile successo. A un certo punto diciamo: ma che facciamo? Facciamo un suicidio? Facciamo un'indagine, ma perché un suicidio? Ma hai fatto 30, fai 31, facciamo un delitto. Il giallo in Italia non inizia certo con Fruttero e Lucentini, ma merito loro è sicuramente quello di aver dato al genere un'impronta diversa, più elevata. La donna della domenica è una foto d'epoca di una Torino che non esiste più, fatta di eleganza, discrezione, mistero e snobismo. Dal libro viene anche realizzato un film interpretato da Marcello Mastroianni, Jean-Louis Trintignant e Jacqueline Bisset, con la regia di Luigi Comencini. Massimo è un nevrotico, lo so, ma è anche molto umile, generoso, sincero e soprattutto intelligentissimo. Senta, ma lei e Massimo non vi stancate mai di essere intelligentissimi a tutti i costi? Deve essere pure una fatica. Una fatica che lei evita accuratamente. Sì, l'intelligenza usata solo per ammazzare il tempo è stronzismo. Stronzismo? Fruttero e Lucentini sanno di non essere grandi scrittori e tantomeno grossi, maggiori o massimi, come oggi li definiscono i critici. Fruttero e Lucentini sono onesti artigiani. Fabbricano sedie su cui i lettori si siedono. Allora, il poliziesco ci metteva al riparo da ogni tentazione, perché insomma, dopo che tu hai detto, non so, i Promessi Sposi, Madame Bovary, Guerra e Pace, non ti ci metti più a fare un romanzo di costume, psicologico, che ne so, è impossibile, una persona seria non ci prova nemmeno, insomma, non puoi pensare di fare quel tipo di cosa lì dopo i grandissimi. Mentre invece nel poliziesco ti dai questa regola chiusa: c'è un morto, devi scoprire chi l'ha ucciso. Oh, signore. Poi dentro ci metti tutto quello che vuoi. Sono eccentrici e disincantati. Non conoscono la realtà, eppure sanno descriverla con minuziosa precisione, seguendo il concetto che un buon scrittore non ha bisogno di possedere un'esperienza diretta delle cose. Basta inventare. E non è che l'inizio. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo la storia di Carlo Fruttero e Franco Lucentini, scrittori e critici letterari di fama internazionale. Si sono conosciuti la prima volta a Parigi, si sono reincontrati poi a Torino, alla Einaudi, e da allora non si sono più lasciati. Dalla grande passione per la lettura di libri sono passati alla voglia di scriverne e infatti hanno appena esordito con il loro primo romanzo giallo, La donna della domenica. Il successo è inaspettato, soprattutto per due persone che, come dice Fruttero, non sono possedute dal demone della visibilità e del successo. La coppia viene strappata alla calma e al lento scorrere del tratto torinese del Po per essere portata in giro per l'Italia, nelle librerie, per la presentazione del libro. E non è che il primo di una lunga serie. Vittorio Sereni, scrittore e poeta italiano, li ha paragonati a due terzini della Juventus, precisi ed efficaci, con grande personalità. A guardarli, nella loro trasmissione L'arte di non leggere, in onda sulle reti Rai negli anni 90, circondati da montagne di libri, sigaretta sempre accesa, sembrano dosare perle di saggezza con argute battute di sottile humor inglese. Per certi versi, ricordano Statler e Waldorf, la coppia dei vecchietti del Muppet Show. Grazie dell'introduzione che, come al solito, è stata lunga. Sì, la lungaggine è sempre stato il maggior difetto di questo show. Scusatemi. Ecco il nostro ospite d'onore, Allen. Scusatemi, sapreste dirmi dov'è Kermit? E siamo noi a condurre lo show questa sera. Lui è lassù, vede? Calmati, non t'arrabbiare. Ho portato il tè. Facciamo questo. Anche il tuo tè e tu stai tranquillo e calmo. Ma come, dove sta il tè? Facevo scena. Alle riunioni di redazione alla Einaudi si davano di gomito e ridevano come studenti all'ultimo banco. Passano gli anni, ma la voglia di scherzare non li abbandona. È il 1973, l'anno dello shock petrolifero e dell'austerity. Fruttero e Lucentini pubblicano sulla stampa un articolo intitolato «Pare che», feroce satira del colonnello libico Gheddafi, della cosiddetta via islamica al socialismo e di un certo atteggiamento remissivo da parte dell'Occidente. La reazione è inaspettata e esplosiva. Si rischia l'incidente diplomatico con la Libia. Per Fruttero e Lucentini sembra tutto un colossale scherzo. Non lo è per la Fiat. Gheddafi sospende le importazioni di veicoli Fiat in Libia e tenta, senza riuscirci, di far mettere al bando la casa automobilistica torinese da tutto il mondo arabo. Si parla di un danno da 20 miliardi di lire. In realtà, come racconta Fruttero in una recente intervista, l'avvocato Agnelli, incontrando i due colpevoli, ironizza, dicendo che la loro bravata è costata cara, ma che in fondo hanno fatto un favore alla Fiat, spalancando le porte dell'Italia all'alta finanza libica. Questo episodio dai toni goliardici e scanzonati ci fa capire quanto il genio della coppia Fruttero e Lucentini fosse il frutto di comportamenti a volte incoscienti, dettati dalla libertà di scrivere senza limitazioni per semplice amore della letteratura. Ma come hanno fatto due persone, certo con tanti punti in comune, ma comunque diverse, a collaborare per così tanto tempo e a scrivere libri di grande successo? Questa storia con Lucentini, certo tutti ci chiedevano come fate a scrivere in due, e questo resterà per sempre un mistero. Parlavamo, la gran cosa era che parlavamo, giravamo intorno a un'idea, poi un'altra, e alla fine bisognava entusiasmarsi. E facciamo poi sempre così, con le parti divise così. Lucentini avrebbe voluto sempre aver tutto sotto controllo fin dall'inizio. Invece io, più avventuroso, volevo stupirmi un pochino. Lucentini diceva, non ci si può stupire quando si scrive un romanzo, bisogna averlo tutto in mente. Io dicevo, avevo un minimo di sorpresa, non sapere proprio tutto prima. E quindi facevamo poi dei compromessi, insomma, noi avevamo una traccia generale, vabbè. E poi questa traccia veniva divisa in vari pezzetti e ognuno scriveva il suo pezzetto, l'altro correggeva, l'altro ricorreggeva. Da questo prezioso sodalizio professionale, nel corso degli anni, vengono pubblicati diversi libri di successo. Nel frattempo gli anni Ottanta esplodono con tutte le loro mille sfaccettature, i pantaloni a sigaretta, le spalline imbottite, i paninari, drive-in. Che ti porti in un posto troppo giusto e lì ti rivolto come una tasca. Fruttero e Lucentini, con occhio critico, osservano la realtà e con abile sarcasmo la descrivono in un nuovo libro, La prevalenza del cretino. Raccogliemmo dei racconti, insomma, degli articoli di giornale e vedemmo che riguardavano in gran parte la cretineria, quindi mettemmo insieme, fu anche quello un grandissimo successo. Credo per il titolo, era molto spiritoso, ben trovato, prevalenza del cretino, poi rimase, entrò in, si può dire, nella lingua. Adesso lo vedo continuamente citato senza dire che è nostro, insomma, è la prevalenza del cretino. Ti sembra stupido? Ah, forse è stupido. B, sì, è stupido. C, troppo stupido. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Quanta vita è passata da quella prima volta? Quanta complicità tra loro si è creata con gli anni? Complicità che ha dato origine a libri di grande successo e a un'amicizia sincera, oltre che a un rapporto professionale. Fino al giorno in cui il destino ha deciso di metterci di nuovo lo zampino. E poi Lucentini si ammalò, cominciò a girare da una clinica a un'altra, un ospedale, poi a Parigi, poi di nuovo qua, in Italia, e la cosa finì poi molto tragicamente. E io rimasi lì solo, devo dire molto, molto svogliato, perché non avevo più, insomma, non avevo più la spalla, non avevo più l'avversario, l'uomo con cui discutevo tutto. Era molto intelligente Lucentini, era molto intelligente, vedeva il punto in un attimo di qualsiasi cosa. 5 agosto 2002, il mondo della cultura perde un protagonista. Lo scrittore Franco Lucentini si è suicidato stamane, intorno alle 6 del mattino, a Torino, lanciandosi nella tromba delle scale della sua abitazione di Piazza Vittorio Veneto. Proprio come si era tolto la vita un altro scrittore torinese, Primo Levi. Lucentini era ammalato da tempo di cancro ai polmoni. Sta intanto rientrando a Torino, dal mare dove era in vacanza, Carlo Fruttero, che è stato avvertito telefonicamente dell'accaduto. Carlo Fruttero è nella camera ardente allestita dalla stampa. Si sente svuotato, sente l'angoscia di chi ha perso qualcuno che è più di un semplice amico, è una parte di se stesso. Come lui stesso racconta, quello di Lucentini è stato un suicidio da bricolore, si è arrangiato con quello che aveva. Con la sua lucida razionalità, prima di morire, può solo avere pensato: ma che cosa sarà mai questa morte? Facciamola finita. Perché Lucentini è un uomo che trova sempre una soluzione, magari di basso profilo, ma la trova sempre. E anche il suicidio è un suicidio alla sua maniera. Da tempo Fruttero non vive più a Torino. Vive nella calma della pineta di Roccamare, a Castiglion della Pescaia, dove anche Italo Calvino trascorreva le sue vacanze e dove Lucentini non venne mai. Nel 2006, però, Fruttero ritrova quella voglia di scrivere, di raccontare, che dopo la morte del suo compagno di viaggio sembrava scomparsa. Esce dunque Donne informate sui fatti, il primo libro che Carlo Fruttero firma da solo, un libro intelligente, spiritoso. Nel 2007 il libro si classifica al quinto posto del premio Campiello e anche in questa occasione Carlo Fruttero diventa la vera star della serata. Senta, lei ha costituito con Lucentini una coppia mitica, ma è vero, non so se sia vero, mi pare così strano, ma è vero che quando si scrive in due non si può concorrere ai premi letterari? Eh sì, in pratica sì, perché un critico serio non ammette che ci sia una collaborazione di... Nemmeno di due anime gemelle come erano no, le nostre. No, è impossibile. Per un critico non è possibile. Ma pensi. Quindi sono due pasticceri, due trafficanti, due la premiata ditta, insomma. E a quel punto lì nessuno ti vuole nel premio, perché... ma quelli cosa fanno? Fanno ingegneria, poi Torino, capisci? Fabbricano i libri, così fanno. Eh sì, avete proprio capito bene. Fruttero e Lucentini, proprio per questa loro personalissima capacità di scrivere i libri a quattro mani, non hanno mai avuto la possibilità di partecipare a un premio letterario ed eventualmente di vincerlo. Solamente con i suoi libri, scritti in solitudine, dopo la scomparsa dell'amico Lucentini, Carlo Fruttero può ricevere il giusto riconoscimento al suo talento. Non sono mica Clooney. Guardi, io sto qui da poco, ma sono sicuro che in 45 anni l'ultimo non ha mai preso tanti applausi, guardi. Questo, guardi, proprio... Ma se nel 2007 Carlo Fruttero arriva quinto, nel 2010 riceve il premio Campiello alla carriera, ma festeggia da solo, senza il suo amico di sempre. Mutandine di chiffon. Aprile 2010 esce l'ultimo libro di Carlo Fruttero, Mutandine di chiffon, Memorie retribuite. Un libro di ricordi, famiglia, amici, scuola, guerra, personaggi illustri, storie allegre e dolorose. Nel libro ci sono anche 3 capitoli dedicati a Lucentini. Fruttero descrive la vita come un aggiustamento continuo, con cacciavite e chiave inglese. Bisogna tirare avanti anche quando la morte di un amico sembra ingiusta e senza giustificazioni. Carlo Fruttero, però, il suo amico Lucentini se lo porta dentro. E quando rilegge il capitolo di un libro, lo rilegge 2 volte. La prima volta per sé, la seconda per Lucentini. Uniti nella vita e nella morte, come 2 pianeti che girano intorno ad un unico sole. Canna di bambù. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.